Tempo di sport di Gigi Garanzini. Oggi per cominciare ci trasferiamo direttamente dal Nazional Popolare all'Internazional Popolare, visto che secondo Marca ieri nell'albergo di Milano, qua vicino tra l'altro, che ospitava il Real Madrid, sarebbe andata in onda la pace tra Materazzi e Zidane, niente meno. Leggo da questa indiscrezione pubblicata pubblicata dal quotidiano Marca. Materazzi stava aspettando Mourinho, a cui era andato a far visita, quando nella hall dell'albergo si è palesato Zidane, che ormai fa il consigliere del presidente Real Florentino Perez. Lui e Valdano li avrete visti magari ieri sera in tribuna. Secondo il quotidiano spagnolo, Zidane e Materazzi prima si sono salutati freddamente, poi hanno iniziato a parlare e alla fine hanno concluso un trattato di pace che sarebbe stato siglato da un affettuoso abbraccio a 4 anni e mezzo ormai di distanza dalla celeberrima scenata che inquinò prima e risolse poi la finale di Mondiale di Berlino. Questo è un dato di cronaca che poi magari attende conferme, ma insomma Marca in genere in queste cose è discretamente documentato. Magari è un po' meno attendibile sul piano dei commenti e delle valutazioni, visto che a leggerlo stamane parrebbe che il Real ieri sera sia stato derubato dall'arbitro a San Siro, e sinceramente non mi risulta. Semi derubato da un guardalinee semmai è un altro discorso, ma secondo Marca e anche secondo Arcio e i quotidiani madrileni ci sarebbero stati dei cartellini rossi a carico dei giocatori del Milan non esibiti. A me pare che se un giocatore di sera meritava semmai l'espulsione era Cristiano Ronaldo. Con i gol di ieri sera, Inzaghi, questa è una curiosità che ha scovato Franco Piantini stamane ed è molto divertente. Allora, il più vecchio goleador di Champions League era diventato 2 settimane fa Cristiano Zanetti, perché aveva segnato all'età in Inter Tottenham 4-3, aveva segnato all'età di 37 anni e 71 giorni per essere precisi. Inzaghi ha 37 anni e 86 giorni, quindi da ieri sera gli ha tolto questo primato di longevità realizzativa nel tabellino dei marcatori di Champions League. Parlo ovviamente di Javier Zanetti, e ho detto Cristiano Zanetti perché insomma a forza di si perde l'orientamento tra tutti questi nomi. Javier Zanetti aveva stabilito quel primato, gliel'ha tolto ieri sera Pippo Inzaghi. Cominciamo a sentire qualche voce in attesa poi di fare il punto sulla 2 giorni di Champions League con l'aiuto di Fabio Tavelli, e in attesa poi dei vostri interventi e dei vostri commenti, come sempre in questo genere di giornate. Partiamo proprio da Inzaghi e dalla sua felicità per questo record, appena offuscata la felicità del pareggio finale del Real, ma insomma io credo che poi i risultati passino e invece i primati restino nella storia. È un record che durava da 35 anni, il calcio italiano è tanto bistrattato, soprattutto i suoi giocatori, e io insomma essere là davanti a tutti è una grande soddisfazione. Poi raggiunto e superato anche Van Basten nel Milan, poi una serata, peccato, quel gol rovina tutto purtroppo. Me li merito, penso, è la prima volta che me lo dico, perché è dura. Insomma, l'ultima partita l'avevo giocata col Catania, avevo segnato ed era 9 partite che non giocavo, per cui non è sempre facile mantenere la concentrazione e la voglia di fare, però insomma l'entusiasmo, e poi questo stadio che mi ha chiamato dal primo minuto di quando mi sono alzato, mi fa fare tutte queste cose. Sì, lo stadio, l'entusiasmo, la sua freschezza, la sua serietà professionale, su questo non si discute, perché un giocatore che gioca alla maniera di Inzaghi o è al 100% della condizione fisica o non è evidentemente. Poi insieme a tutti questi fattori io ci metterei anche magari Iker Casillas, no? Che sul primo gol, il primo gol l'ha regalato in un certo modo e il secondo in un certo altro. Il secondo è una coproduzione guardalinea che ovviamente deve interrompere l'azione, ma anche Casillas, che è uscito in una maniera assolutamente scriteriata, come già nel primo tempo era uscito assolutamente a vuoto su un lob poi sbagliato in semi rovesciata da Ibrahimovic. Una pessima serata del portiere del Real e della nazionale spagnola. Siamo già collegati con Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Vi ho dato conto di qualche primato europeo che è stato stabilito nel frattempo e che ovviamente è un primato, come dire, soggetto a verifica. Raul, perché mentre Gerd Müller gol non ne può più fare, Raul, che ha un gol di distacco di distanza da Inzaghi, gioca tuttora la Coppa, la Champions League con lo Schalke 04 e può continuare evidentemente, così come può continuare Inzaghi. Sì, la sensazione è che Inzaghi sia più fresco e soprattutto sia un giocatore che cioè in questo momento goda di una situazione migliore proprio per il fatto che può entrare a partita iniziata, può entrare nel finale, può entrare nelle azioni particolari, magari anche un po' confuse, un po' così, insomma, segnare questi gol che davvero non si insegnano. Cioè Inzaghi è un giocatore che non si può riprodurre da questo punto di vista, perché è veramente complicato, credo sia molto complicato, mi piacerebbe sentire l'opinione di chi insegna nelle scuole calcio, perché insomma spiegare Inzaghi, cioè, mentre puoi spiegare un altro tipo di giocatore, ma non è detto che poi tu sia in grado di far capire bene ai ragazzini come si muove Ibrahimovic o quello che fa Ibrahimovic, perché c'è sempre un tocco di genialità in questi giocatori. Spiegare Inzaghi ai ragazzini è onestamente, secondo me, un'impresa non possibile, e dunque trattasi di giocatore unico, non replicabile, e che effettivamente, come hai detto tu, perché insomma nel primo gol ci metto anche un cross sbagliatissimo di Ibrahimovic, cioè lì dopo dentro, la scivolata di Pepe già, ci sono state, c'è tutto, ci sono 3-4 certo. Padelle, sono 3-4 macchie su quella camicia, però lui la confeziona perfettamente, perché lui ancora una volta è lì come un falco, è lì al posto giusto nel momento giusto. Questa è una cosa inenarrabile, certo. Perché comunque anche il secondo gol dove Casillas fa un errore colossale, ma comunque Inzaghi fa una roba di una facilità apparente totale. Lui arriva davanti al portiere campione del mondo, questo salta e lui gli mette un piattone, la palla va dentro piano e, sì, e sì. San Siro impazzisce. Cioè, queste non sono cose onestamente spiegabili, sono cose che lui fa. Poi ci sono le partite nelle quali ti fa disperare perché magari finisce 10 volte in fuorigioco, e altre nelle quali fa questo. Ieri sera c'era finito in fuorigioco al momento decisivo, se vogliamo essere precisi. Sì. Cioè, su un'azione pericolosissima è riuscito a finire in fuorigioco, perché poi si può vedere sempre al contrario, no? Tutto, ma insomma, di fronte alle cifre di Inzaghi. No, esatto. Poi alla fine sono i numeri complessivi che convincono. Tu hai detto che è più fresco di Raul, sembra più fresco di Raul. No, ma perdonami, Gigi, ho detto più fresco nel senso che può giocare a partita iniziata nel finale e sfruttare questo. Raul deve giocare dall'inizio spesso, e quindi è vero, ma io trovo che sia giusto, perché Raul è di 3 anni più giovane, ma sembra accusare comunque l'età più di quanto non stia, non sembri accusarle Inzaghi. Intanto credo ieri fosse il compleanno di Gerd Müller, potrei sbagliarmi, ma non credo. Era il compleanno di Gerd Müller. Quindi cosa particolare. Detto questo, è vero, poi Inzaghi è chiaramente un giocatore in questo momento estemporaneo, nel senso che è molto probabile, anche se non abbiamo la verifica, che sia più pericoloso a partita iniziata. È anche vero che, ascoltando con molta attenzione le parole di Ibrahimovic ieri sera, il sospetto che lui stesso abbia voluto, come dire, mandare quasi un segnale ad Allegri a me è venuto, nel senso che non escludo che Ibrahimovic possa trovarsi meglio con Inzaghi, e magari anche Inzaghi con Ibrahimovic, però insomma, questo è un discorso che riguarda più Massimiliano Allegri. Sì, di quanto riguardi noi. Siamo già arrivati al primo intervallo, continuiamo dopo aver sentito come va sulle strade. Se avesse pareggiato la Juve, scrive Roberto, con un gol palesemente in fuorigioco, sareste tutti lì a protestare. Non stiamo protestando, stiamo però ricordando che Inzaghi ha segnato un gol in netto fuorigioco, tanto protestare o non protestare non serve a niente, il gol è stato segnato. Diciamo che avendo avuto ieri sera la sventura, dopo tanto tempo, di ascoltare una telecronaca Rai, ho capito in effetti a che punto sia, una volta per tutto, una volta in più, in che stato sia ridotto il servizio pubblico dal punto di vista della demagogia e del nazionalismo, ma inteso nel senso veramente più inculturato, ammesso che questo sia un aggettivo, e invece non lo è. Torniamo da Fabio Tavelli. La vittoria della Roma ovviamente ha dato ossigeno alla squadra, ma mettendo insieme Inter, Milan e Roma, quali sono, a parer tuo, oggettivamente, a questo punto, a 2 giornate dalla fine di questi gironi, le possibilità di qualificazioni per ciascuna delle 3? Ma direi altissime, altissime, perché intanto la Roma in questo momento sarebbe qualificata al secondo posto, e al massimo il secondo può essere, perché il Bayern di Monaco ha fatto 4-4. La speranza è che la Roma stia concentrata e che vinca la partita contro il Bayern di Monaco, che è alla sua portata, anche se poi naturalmente dovrà aspettare anche il risultato dell'altra partita. Io ieri ho visto tracce della Roma vera, soprattutto quando Vucinic andava in proiezione, ma anche Menez. Nel primo tempo la Roma mi è molto piaciuta, ha avuto bisogno di un miracolo vero di Giulio Sergio sullo 0-0, e nei primi minuti ha un po' ballato, trovo che ancora faccia fatica misteriosamente per me a livello di centrali, perché insomma ha tre centrali, vabbè, Mexas ieri non c'era, ma Kwan e Burdisso sono comunque due giocatori importanti, però lì fa fatica contro attaccanti anche abbastanza statici come ieri sera, però hanno fatto fatica. E l'Inter comunque è lì, insomma, la partita contro il Tottenham poi l'avete già analizzata voi, ci stava di perdere, ci stava anche di non perdere, forse l'Inter non è andata proprio con la fame di volerla vincere, però insomma, visto il Werder Brema di questi tempi, io credo che non ci siano grandi difficoltà poi a fare 6 punti nelle prossime due. Trovo che la classifica del Milan sia quella che vada tenuta un po' più come dire guardata, con attenzione, perché cioè, il Milan ieri certamente ha avuto il danno di essere raggiunto al 95esimo. Il risultato tra Auxerre e Ajax secondo me è positivo, perché dovrebbe certo essere l'Ajax la squadra, la vera rivale per il secondo posto. Qui io credo che a un certo punto ieri con il Milan così sotto anche a livello di gioco, dopo aver visto l'Inter perdere, ci si poteva anche aspettare che la cosa potesse andare male. Sinceramente direi che il saldo è decisamente positivo. Ripeto, l'unica squadra che poteva perdere abbastanza tranquillamente era l'Inter, e quindi credo che sia un colpo assorbibile così, in maniera abbastanza facile. Credo che 2 su 3 arriveranno seconde, se sicuramente la Roma e con tutta probabilità il Milan, e questo vorrà però dire avere un avversario serio e forte negli ottavi di finale, perché certo, le prime tre qualificate agli ottavi sono già tre signore squadre, che sono il Chelsea, il Real Madrid e il Bayern di Monaco. Continua la maledizione San Siro per il Real Madrid, ha giocato 14 partite in Europa in casa di Milan e Inter, alternativamente non ha mai vinto una di queste partite. Per il Real mi sembra un dato molto significativo, appunto, no? Per una squadra come Real Madrid. Un altro dato numerico in questo caso è che c'era stata molto uniformità realizzativa nei primi tre turni, 44, 42 e 43 gol. In questo turno invece si è saliti a 53, ma a che prezzo? Perché ho visto i 7-0 esterno del Marsiglia sul campo della Zilina, che è il record, il più largo successo in trasferta nella storia della Champions League. E per l'ennesima volta ci si domanda, ma che li fanno a fare sti gironi? Ma da dove arrivano queste squadre? Ma guarda, ci ho pensato anch'io onestamente, perché poi non c'è solo lo Žilina, c'è anche il Bursaspor che ha perso 4 partite e non ha ancora segnato un gol. Però poi ho visto anche come i turchi hanno preso queste sconfitte casalinghe, ci cioè hanno cantato per 90 minuti. Insomma, da un altro punto di vista c'è anche la necessità prima o poi di coinvolgere anche un calcio che non è minore nel caso della Turchia, che comunque è una nazione assolutamente dignitosa. Devo dirti che pensare a squadre di grande lignaggio, di grande storia, di grande caratura, come quelle che ci sono in Europa League quest'anno, e vedere il Bursaspor, lo Žilina o altre, ieri non so quante persone abbiano guardato Partizan Sporting Braga, però insomma ci sono partite che fai fatica a pensare di voler vedere. Platini ha fatto una cosa interessante, che è stata quella di cominciare a cambiare la formula dalla parte dei preliminari, e sicuramente la fase a gironi è penalizzante. Ricordiamoci anche che fino a non moltissimi anni fa erano due le fasi a gironi, i motivi li sappiamo bene, sono per cercare di lucrare il più possibile dai diritti. Direi che non c'è soluzione da questo punto di vista. O si fa una scelta che è antidemocratica da questo punto di vista, e cioè la Champions League diventa un torneo, è un sovratorneo, una sovrastruttura, ma che però coinvolge delle squadre a prescindere dalla qualificazione nei loro campionati, e allora diventa come l'NBA, oppure dobbiamo sapere che da settembre a dicembre si chiama Champions League e poi da febbraio a maggio si chiama Coppa dei Campioni, diventa un qualcosa di diverso. Infatti io userei proprio questa formula che per noi ormai è collaudata da anni, sì. No? Questa è una cosa e poi a febbraio ne comincia un'altra. No, fermo restando, Gigi, perdonami, che comunque a me capita ancora di provare un senso di emozione quando in conduzione facciamo il giro dei campi e vediamo i giocatori schierati in campo, la musichetta, gli stadi pieni, i colori. Certo. Cioè, questo è bello, nel senso che poi oltretutto mi pare che la correttezza non solo dei giocatori, ma anche del pubblico sia davvero di 2-3 gradini. La forma è ineccepibile, Fabio, sì. Sono i contenuti che magari... I contenuti a volte... Però anche qui, cioè, ci sono 8 partite belle in nessun ristorante te le servono. Ieri ce n'erano un paio sicuramente gradevoli, certo. come martedì, e siccome fino ad ora un essere umano o in 3D o in HD o in standard definition ne può vedere una sola, direi che una si trova sempre. Senti, c'è un milanese a nome Walter che vuol metterti nei guai, perché dice: visto che lo scorso anno il suo amico Tavelli in tempi non sospetti e con larghissimo anticipo vaticinò la finale Inter-Bayern, sì, è vero. Insomma, è già ora di provare a sbilanciarsi. Io vorrei proteggerti a dire che è ancora un po' prestino, ma se tu... Guarda, ti vuoi buttare me, ma no, beh, insomma, lanciarsi su un pronostico di una finale mi sembrerebbe vagamente demagogico e banale, perché poi davvero ci si ricorda soprattutto i pronostici azzeccati e non quelli sbagliati. Però qualche sensazione c'è, insomma, per cui però credo che sia più opportuno almeno aspettare la penultima o l'ultima giornata. Sì, insomma, ne riparliamo alla fine almeno, sì, di questi gironi. Sì. Senti, e in compenso, che per chiudere questo intervento, in compenso proviamo a proiettarci già sul sabato e sulla domenica, perché tra l'altro poi qualcosa si collega tra le coppe e i campionati, non so, banalmente leggo da un'agenzia che Burdisso, per esempio, che ieri sera è uscito con una caviglia pesta da Basilea, è in dubbio per oggi sottoporre ad esami. La Roma è appena rientrata, è in dubbio per il derby. Se ci segnali magari gli appuntamenti principali non italiani, quelli li conosciamo, di questo prossimo weekend. Ma guarda, io sono molto curioso di vedere il Manchester City, perché avendone poi anche parlato con Roberto Mancini l'altra sera, mi incuriosisce vedere la reazione del Manchester City, che gioca contro il West Bromwich Albion. È una partita che sulla carta teoricamente la squadra di Mancini dovrebbe far propria, perché insomma il West Bromwich ha giocato lunedì, ha perso in 11 contro 9, però diciamo che la squadra di Mancini è abbastanza favorita per questa partita. Per quanto riguarda il campionato inglese, c'è soprattutto Liverpool-Chelsea, che è la partita delle 17 di domenica. Vale perché il Liverpool in questo momento è una squadra decisamente più presentabile, anche se siamo ancora molto molto lontani da un rendimento che insomma ci ha abituato il Liverpool. Comunque il Chelsea, che ha questi 5 punti di vantaggio sull'Arsenal, Manchester United, va ad Anfield, che è un terreno comunque non facile in generale anche dal punto di vista ambientale. L'Arsenal gioca in casa contro il Newcastle, non una partita facilissima perché i Magpies stanno facendo un buon campionato. Potrebbe anche darsi che ci sia la possibilità, non so, anche per il Manchester United, che gioca contro il Wolverhampton, di riuscire a recuperare qualcosa. Da un certo punto di vista sarebbe anche augurabile, perché se il Chelsea va a un vantaggio troppo ampio, direi che il campionato inglese si spegne abbastanza facilmente. Però ti ripeto, starei molto attento al Manchester City, perché poi la settimana dopo hai il derby contro il Manchester United e insomma, certo, la tranquillità di Mancini passa anche da questi due incontri. In 30 secondi, il Real visto ieri sera sul campo del Milan, tolto il primo magnifico quarto d'ora, come se la vede domenica sera con l'Atletico Madrid nel derby madrileno? Allora, queste però sono partite che Mourinho prepara al 110%. Io ho il sospetto che il lavoro di Mourinho sia più avanti rispetto ad altre sue apparizioni, cioè che lui, innestato anche su una squadra che aveva più bisogno rispetto all'Inter di Mancini 3 anni fa di un reset, lui ci stia già mettendo la sua mano in maniera più evidente e più pesante. Ti dirò, mi ha un po' deluso fatto che il Real Madrid sia un po' calato ieri alla distanza, quando invece credo che il Real Madrid sia anche decisamente più forte a livello fisico rispetto al Milan. Ti do solo la testimonianza di due persone che ho incontrato stamattina e che hanno visto la partita dal vivo, perché sappiamo tutti bene quanto diverso sia vederla dal vivo rispetto alla televisione. Erano a San Siro e mi hanno detto primi 60 minuti, 65 minuti di grande, grande paura da parte di chi ha visto la partita. Ed è una sensazione che mi hanno comunicato in tanti, cioè il Real Madrid, anche quando non combinava granché, come in alcuni momenti del secondo tempo, dava la sensazione di poter veramente spaccare tutto. E questo credo che quando poi arriverà primavera potrebbe essere pesante. Quindi, per rispondere alla tua domanda, io credo comunque che il Real Madrid farà bene e che vincerà questa partita. Il derby con l'Atletico. Esatto. Molto bene. Grazie a Fabio Tavelli. Alla prossima, grazie. Ci risentiamo la prossima settimana e andiamo immediatamente a sentire cosa succede in borsa. È appena uscita, è stata appena battuta appunto dall'agenzia, una raffica di divieti di trasferta per partite prossime avventure di campionato, a cominciare da Bologna-Lecce per esempio, che si gioca il 6 novembre, quindi che è di questo turno, a Cesena-Lazio del turno successivo, così come Chievo-Bari, così come Parma-Sampdoria, come Juventus-Roma, come Bologna-Brescia del 14 novembre, come Cagliari-Genova del 14 novembre, Udinese-Lecce del 14 novembre. Ci sono molte partite minori di campionati minori, tipo Alessandria-Salernitana, sto leggendo Cremonese-Paganese, Benevento-Cavese, Juve-Stabia-Nocerino. Insomma, è sempre un quadro che ogni tanto è bene ripassare, no? Per il tasso appunto di civiltà del nostro calcio a tutti i livelli. E poi scendendo, ci sto arrivando, c'è il divieto di trasferta per le gare Centobuchi Ancona del 6 novembre 2010, e non è uno scherzo, ripeto, e il giorno successivo e il 14 novembre di Civitanovese Jesina. E quindi salvo possa essere di tessere del tifoso, ma non so però se in quelle categorie la tessera del tifoso ci sia o meno, sinceramente mi dichiaro la mia ignoranza. E in trasferta per Centobuchi Ancona e per Civitanovese Jesina non si può andare nemmeno per Montepaschi Siena Pepsi Caserta di basket del 7 novembre, sto leggendo sempre in questa agenzia. Dopodiché, per restare brevemente, per continuare con una breve parentesi, c'è scritto nei giorni scorsi un ascoltatore di nome Ugo Cisternino che ci ha raccontato la sua personale disavventura per Italia-Serbia a Genova, e soprattutto la disavventura legata ai rimborsi, perché aveva provato il 19 ottobre, cioè una settimana dopo la partita, a recuperare l'importo del biglietto, i 50 euro pagati per il biglietto, e gli era stato detto che doveva assolutamente tornare a Genova e che non c'era altra soluzione. Allora ci ha chiesto di interessarci, ha fatto Franco Piantanida, che ringrazio e che immagino Ugo Cisternino in particolare ringrazierà a maggior ragione. Modalità di richiesta rimborso biglietti acquistati al botteghino nello stadio nei giorni 11 e 12 ottobre, e cioè la vigilia della partita e il giorno della partita, per ottenere rimborso, ma non era così in un primo tempo, è diventato così adesso. Per ottenere rimborso sarà necessario spedire i biglietti in proprio possesso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 7 novembre. Quindi oggi ne abbiamo quattro, caro Cisternino, ha tre giorni di tempo per spedire i biglietti al seguente indirizzo: Ticket One SPA, via Vittor Pisani 19 20 124 Milano. Spero che ci abbia ascoltato e che abbia preso nota. Ripeto, è una comunicazione di servizio, ma a un ascoltatore campione, perché in tanti avevano scritto lamentandosi delle difficoltà di rimborso per i biglietti di ovviamente non goduti, così di se così si può dire, per Italia-Serbia. Ha chiamato Andrea da Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, è un piacere parlare con lei, soprattutto per la sua competenza che le riconosco a tutto campo. Senta, io solo una considerazione. Io ieri sera ho assistito alla partita in televisione, sono uno sportivo appassionato di Milan, ho partecipato della gioia di Inzaghi, comunque un grandissimo professionista dal quale secondo me Ibrahimovic potrebbe imparare parecchio, soprattutto dal punto di vista del comportamento. E però l'unica cosa che posso dire è che francamente il Milan non è assolutamente all'altezza del Real Madrid, cioè se il primo tempo fosse finito 3-0 francamente non ci sarebbe stato nulla da eccepire. volevo semplicemente conoscere la sua idea. Beh, 3-0, insomma, la sensazione dopo un quarto d'ora era quella, anche se la partita era ancora sullo 0-0. Poi però il Real ha concesso due contropiedi mica male al Milan, e Ibrahimovic si è mangiato due gol mica male, diciamo almeno uno dei due, ma secondo me anche tutti e due. Quindi questa superiorità sì, invulnerabilità no. Perché a differenza dei due gol che poi ha subito, uno dei quali è in fuorigioco, l'abbiamo detto, e l'altro è frutto di tre errori consecutivi, ma errori, casualità consecutive, perché Pepe scivola, non è che sbaglia l'entrata o sbaglia il tempo dell'intervento, Pepe semplicemente scivola, Ibrahimovic sbaglia il cross perché lo mette nelle mani di Casillas, che però ha già fatto un passo in avanti di troppo e quindi fa una papera. Insomma, mi sembrava che le due azioni del primo tempo, con un assist perfetto tra l'altro di Ronaldinho per Ibra in particolare, fossero due cose costruite, mentre quelle finali erano casuali. Poi alla fine nel calcio va sempre tutto bene, ma insomma mi sono sembrate molto più importanti quelle due azioni lì che non quelle finali. Ancora un ascoltatore, Paolo della provincia di Ravenna, buongiorno. Buongiorno signor Granzini, volevo farle presente innanzitutto l'età della Madrid, e se secondo lei questa può diventare una dynasty, dato che Sergio Ramos 24 ma solo 22 anni, anche il centrocampo di 22-23 anni, senza tenere presente sempre Benzema e Higuain, che sono comunque 88-87, e Cristiano Ronaldo 25 anni. Sono tutti ragazzi, lei pensa che possano veramente avere un predominio in Spagna e in Europa da qui ai prossimi anni? Ma in Spagna se la vedono con Barcellona, che a sua volta, insomma, come età media non è combinato così male, forse non è così bassa, perché Xavi e Puyol hanno certamente qualche anno in più, ma insomma, credo che in Spagna se la giochino, e questo vuol dire che se la giocheranno anche in Europa. Poi certo, è una covata, no, covata no, perché li hanno presi in giro per il mondo, a differenza di quando il Real nasceva nelle cantere, ma certamente è una squadra futuribile, su questo non c'è alcun dubbio, ed è una squadra futuribile che adesso ha un po' più di senso rispetto a quello che aveva lo scorso anno. Cioè è indubbio che con l'arrivo di Mourinho intanto c'è più sostanza, ed è indubbio che il suo arrivo, ma anche un diverso peso di Valdano nel potere decisionale presso Florentino Perez ha fatto sì che dopo gli acquisti deliranti dello scorso anno, in cui si era andati soltanto veramente col manuale delle figurine, quest'anno invece si è pensato anche alla sostanza. Basterebbe un giocatore come Khedira, per esempio, a spiegarlo. L'anno scorso Khedira il Real non l'avrebbe mai acquistato, perché non faceva vendere magliette o abbonamenti, invece quest'anno l'hanno preso e come. Ricordiamoci anche, e lo dico a un paio di ascoltatori che sono già collegati, che stasera si gioca l'Europa League, e quindi mi sembra il caso, anche per rispetto delle italiane impegnate, sperando che poi gli italiani impegnati rispettino l'avvenimento, no? Come non sempre è successo nei primi turni. Dicevo che le italiane impegnate insomma, a loro volta cerchino di migliorare il rendimento complessivo delle squadre italiane in Europa, che per esempio nel turno precedente, sommato Champions più Europa League, aveva portato al brillantissimo bottino di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. Stavolta siamo a 1-1-1 dopo la Champions, vediamo stasera cosa fanno queste quattro. Allora, in rapida sintesi, prima del Neri, sugli infortuni e sulla vigilia del Salisburgo. Non è un prodotto di un atteggiamento di preparazione sbagliata, è un prodotto proprio di traumi continui. In questo momento ci impedisco addirittura di avere anche Ferrero, perché anche lui ha avuto un trauma l'altro giorno, e per cui direi che da questo punto di vista non siamo fortunati. Pretendo che la squadra sia organizzata, al di là di come giocheremo. Organizzata vuol dire essere a posto in campo, essere messa bene e avere lo spirito che ha dimostrato a Milano, è dimostrato in queste ultime partite, perché anche quello fa squadra. C'è da soffrire, perché affrontiamo una squadra molto veloce, che si è ripresa molto bene in campionato battendo la prima in classifica, e direi che è sulla strada giusta, ma ne ero consapevole anche quando abbiamo pareggiato giovedì scorso. Questa è la vigilia di Del Neri di Juventus-Salisburgo. Il Napoli è in trasferta a Liverpool dopo il pareggio di due settimane fa. Sentiamo Mazzari e poi Hamsik. E riportare la nostra società, la nostra città, a confrontarsi con questo tipo di realtà è motivo di orgoglio e soddisfazione. Giocare contro Liverpool a questo stadio sia una bella cosa, e speriamo che le facciamo più possibile partite così. Dunque ci sono altre due squadre ovviamente impegnate, facciamo di nuovo un intervallo con un paio di ascoltatori. Angelo da Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Ieri ero a San Siro e essendo milanista da generazioni devo fare i complimenti a Mourinho perché ha trasformato la squadra e nel primo tempo e l'inizio del secondo tempo abbiamo ballato in una maniera incredibile ed era bello vedere proprio i giocatori come si muovevano in sincronia e a partire da Higuain come anche il più semplice passaggio, il più semplice stop anche dei difensori era la cosa più difficile da fare, invece quando loro attaccavano, avanzavano guadagnando metri su metri senza che nessuno uscisse in opposizione sul portatore di palla e c'era il distacco tra i tre nostri attaccanti e il resto della squadra di almeno 30 metri di divario, che era la cosa che dallo stadio proprio si vedeva ed era sì. Eloquente. Sì, Angelo, senza dimenticare che il Milan ha ballato quasi uguale contro la Juventus l'altra sera, avevo portato il pallottoliere sinceramente per ieri sera. Beh, dai primi 10 minuti di quarto d'ora non l'aveva portato in vano, poi invece la situazione è cambiata, il Real ha giocato un pochino con lo specchio in mano, Ronaldo si è dedicato a fare il bullo anziché il campione come ogni tanto gli succede, e tra l'altro vedendo lei ha fatto quelle considerazioni, io ne ho fatto un'altra ieri sera, ho pensato che è un peccato non augurare, per l'amor di Dio, è un peccato fare di queste riflessioni, ma ogni tanto ti vengono l'istinto, e quell'istinto è che Ronaldo prima o poi il suo lo trova comunque, perché non è che puoi pensare che trovi sempre un signore come Abate, no? Che ti prende un pestone di quel genere e poi la volta dopo al massimo ti fa un fallo di ammonizione lungo la linea laterale su cui poi si poteva anche discutere. Ti possono capitare giocatori diversi e se te le vai a cercare poi un giorno o l'altro va a finire anche che le trovi, ripeto, sarebbe un peccato per un campione come Ronaldo, il problema è che è un campione con i piedi e con l'istinto, con la testa mi sembra molto ma molto meno. Ultimo intervallo, strade. Torniamo in onda e andiamo avanti con la vigilia di Europa League in programma stasera e sentiamo quella del Palermo e di Delio Rossi, in particolare sull'impiego o meno di Miccoli. Viene da un infortunio e queste partite secondo me gli serviranno per ritrovare le sensazioni del gioco. Già avevamo intrapreso sta strada nell'altra partita con Lausanne, purtroppo poi, ed è anche normale quando vieni da un infortunio così lungo, devi anche trovare la giusta condizione e sperando di non avere ricadute. Resta la vigilia sampdoriana che stasera prova la rivincita contro il Metalist a Marassi. A prescindere da come, magari da tanti altri avvenimenti, è un gruppo straordinario, è un gran gruppo, diciamo, cominciamo a essere consapevoli della nostra forza, l'importante è continuare a lavorare, abbiamo dei giovani che comunque stanno crescendo, stanno dando forza, vitalità e anche quel pizzico di fantasia in più. Non avendo un giocatore magari lì davanti di riferimento come lui, allora facciamo tutti quel qualcosa in più che ci permette di fare meglio. Poi alla fine quello che conta secondo me è l'insieme, è la squadra. Era Di Carlo, la prima voce era quella di Di Carlo, dell'allenatore, poi è subentrato Palombo a proposito di Cassano. Ma restando alla Sampdoria c'è stata, ed è passata un po' inosservata, la squalifica in campionato di un turno di Pozzi per bestemmia. E c'è stata ieri una precisazione, sì, ha raccontato Di Carlo che la squalifica sarebbe arrivata così, lui avrebbe pronunciato quella bestemmia 20 minuti dopo la fine della partita a Cesena in un corridoio mentre parlava con un compagno e mangiava una piadina col prosciutto. Ora, sinceramente, o Di Carlo sta ambientando questa cosa in maniera un po' tanto, ha trovato una scusa ambientale un po' eccessiva, oppure se così fosse, insomma, le orecchie dei responsabili della Lega sono diventate di una sensibilità incredibile, no? In rapporto soprattutto alla facilità di bestemmia che si registra in ambienti diversi e che ovviamente passano non inosservate ma vanno leggermente più impunite. C'è scritto un tifoso dell'Ancona chiedendoci cos'è questa notizia del divieto. La notizia del divieto è molto semplice: il 20 ottobre i tifosi dell'Ancona avevano avuto il divieto dal CASMS di andare in trasferta a Corridogna, per Corridogna Ancona. Stavolta non potranno andare in un posto che si chiama Centobuchi, frazione di Monteprandone, provincia di Ascoli Piceno, perché lo Stato non è in grado di garantire, diversamente, il corretto svolgimento, no? Insomma, una corretta partecipazione del pubblico, ecco, facciamo così, alla partita Centobuchi Ancona. Ma nonostante questo, come avete sentito la scorsa settimana dal responsabile appunto del CASMS, il sistema Calcio Italia funziona, lo ha spiegato dopo la sentenza di Italia-Serbia. Tocca a Giuseppe da Verona, buongiorno. Buongiorno dottor Caranzini, complimenti. Io volevo fare due piccole cose. La prima, che Mourinho si poteva evitare quel saluto all'inizio, e questa è una. Poi la seconda parola, che per me è la decisione assoluta, l'ha detto Marino Bartoletti a fine primo tempo sulla Rai, chiamando Ronaldo campione ma buffone. Cosa ne pensa lei? Grazie. Penso che Ronaldo ieri sera si sia comportato malissimo. Penso che Mourinho ha spiegato di aver rivolto quelle tre dita, quel gesto delle tre dita per ricordare le tre vittorie con l'Inter, e di averlo rivolto ai tifosi interisti. Io credo che Mourinho possa. Mourinho per me è come era un tempo una grande attrice bellissima che si chiamava Virna Lisi, e lo slogan della sua pubblicità a Carosello, sto parlando dell'altro millennio, era: con quella bocca può dire ciò che vuole. Andrea da Livorno, buongiorno. Buongiorno, ricordo anch'io Carosello. Quindi volevo precisare, fatto complimenti, volevo far presente una cosa che secondo me sta accadendo e sta rovinando il Milan. È la posizione, l'atteggiamento di Seedorf dall'ultimo minuto, quando ha fatto gol il Real Madrid. È colpa di Seedorf anche ieri, una leggenda. No, Andrea. Ha fatto, praticamente è stato immobile, e se si riguarda bene la partita, il penultimo giocatore che ha dato la palla filtrante in fondo era a un metro da Seedorf e lui l'ha ignorato completamente. Ma io non ce l'ho con Seedorf, perché è stato un grande giocatore, è uno dei meno negativi, diciamo. L'unica cosa è che è l'atteggiamento mentale, secondo me, che ha questo Milan, Gattuso e Ambrosini a parte, che in certe situazioni uno deve tirar fuori anche il cuore. Certi atteggiamenti di minima sufficienza non mi entusiasmano da milanista. Andrea, io invece di questa ricerca del colpevole ad ogni costo, perché allora parliamo del primo gol, di chi perde la palla a metà campo e di come non funziona quello scambio, io credo che ogni tanto bisogna saper dire bravo agli avversari. Nel caso di ieri sera, si è chiesto quante squadre in quella situazione, cioè a un minuto scarso dalla fine, avrebbero buttato in aria la palla nel mucchio e quante invece no? Si è chiesto se il giocatore in possesso di palla in quel momento, che era Benzema, cosa avrebbe fatto. Benzema ha fatto la cosa giusta, però ha fatto una cosa da magari campione lo sembrava da più giovane. Io credo che possa ancora diventarlo, perché ha dei numeri notevolissimi. Però il movimento nello spazio che fa Pedro Leon davanti a lui, ma soprattutto l'intuizione di Benzema di accorgersi che tutti gli avversari si stanno ammassando sulla parte più lontana dell'area, perché? Perché in 99 casi su 100 in quel momento arriva il cross della disperazione, e questo invece va a pescare in verticale l'uomo, che poi va bene, trova un tiro anche fortunato tra le gambe di Abbiati, però mi sembra una di quelle volte in cui forse bisogna anche saper dire bravo agli altri. Francesco Trento, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto concordo con lei sui meriti anche di organizzare un attacco in situazione disperata anziché buttare palle a caso. Io sono milanista da sempre e vorrei sapere anche la sua opinione su quanto sto per dire, nel senso che penso che Allegri abbia perso la scommessa da subito, perché ha accettato il compromesso. Il Cagliari piaceva tanto perché tutti i giocatori correvano senza palla e difendevano sotto la palla, un po' come le squadre di Mourinho. Allegri ha accettato di avere 2-3 giocatori che camminano in funzione, in, ossequio al talento. Il Real Madrid ha giocatori altrettanto talentuosi, tutti trascuriamo Di Maria, che per me è un piccolo fenomeno. Certo. E Allegri ha accettato questo compromesso, si è chinato e ha perso già. Per me è così. Se non è così, non è lontanissimo da così. Francesco, grazie. Io stavo dimenticandomi la rubrica di Nicola Filippone, il ripasso di storia, perché quando molti di voi sono prenotati tendo a guardare le vostre prenotazioni, a guardare le notizie delle agenzie, per esempio che sarà Morganti a dirigere il derby di Roma il pomeriggio di domenica. E invece è ora di sentire che cosa Nicola Filippone ha scovato per il giovedì 4, per il 4 di novembre. Sembra ieri. 4 novembre 1961. A Torino la nazionale stacca il biglietto per i mondiali cileni, travolgendo per 6-0 Israele. La firma principale in calcio alla goleada è di Omar Sivori. Il fuoriclasse juventino mette infatti a segno 4 reti. Le altre sono realizzate dal romanista Antonio Valentino Angelillo e dal giovane interista Mariolino Corso, che entra così nella storia della nazionale italiana, siglando il gol numero 500. Il 4 novembre, mi segnala Nicola Filippone, era anche il compleanno di Sandro Ciotti, che era nato a Roma in quel giorno del 1928. E ogni tanto, ascoltando certe radio o telecronache di oggi, sinceramente, il pensiero non può non correre ai grandi di un tempo. C'era Roberto Scatritti in regia, c'era Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio a tutti. Tempo di sport.